Thank you. Thank you.

Dio patera su volo con piedi da modo e in apostoli che ti sia la posteri ti non è Cristo mio Dio con e per ne den come sa che fosse vos antinienuta oh li ponca fos che a sto fatto sentita ne passere Et apostus et nicus arones.

Thank you. Ma chi sa di, non sa cosa, di non vedo. abbandonato so. O storia soiera, smettila e vola, poi adoloresti. Oh, Thank you. Thank you. Oh, Thank you.